Cotori, Cotori, perché mi dite sti parole amare, perché mi parlo core me, durmiente Cotori, non te scurdo che t'ha giudato core Cotori, non te scurdo Cotori, Cotori che ve la dicere sto parlando a me da spasame. Oh!